Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Olga e Debs. Bentornati sulle frequenze di Radio Città Fujiko, siete su Van Loon e questa è la vostra mezz'ora di storia. Oggi parliamo di un bell'argomento, devo dire, anche perché la data non poteva non farci parlare di una cosa di cui già parliamo normalmente. Parliamo di femminismo e di anni 70. Sì, ci occuperemo di un libro che si chiama Manifesti femministi, il femminismo radicale attraverso i suoi scritti programmatici 1964-1977, a cura di Deborah Ardilli, che abbiamo intervistato. Il libro è ha un'edizione curata da Wanda e da Morellini Editore ed è uscito proprio di recente, a fine 2018. Più tardi vi presenteremo l'autrice, che appunto è venuta a farci compagnia sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Questa puntata, appunto, come diceva Olga, va in onda durante la settimana dell'8 marzo. Noi registriamo prima, quindi stiamo registrando esattamente il giovedì, quindi per l'8 marzo per noi sarà domani, ma voi ci ascoltate il giorno dopo l'8 marzo. Siamo sicuri che sarà andato tutto benissimo, che sarà stata una gloriosa manifestazione e infatti ne approfittiamo per salutare tutte le donne, le attiviste, le compagne, chiunque era ieri in piazza con nulla di meno. Ricordiamo che lo sciopero è stato uno sciopero internazionale come gli anni scorsi. Era davvero tanti anni che non si vedeva un'esplosione di un movimento di donne internazionale, con diciamo rivendicazioni che vanno al di là della questioni legate magari alla sessualità o all'ambiente domestico o all'ambiente più privato. È un movimento che possiamo dire oggi ci ricorda appunto movimenti del passato, dei gloriosi anni 70, perché appunto ha un aspetto internazionale e davvero ha una volontà di mettere a suo quadro tutto l'intero sistema. E quindi, prima però di passare a cose diciamo del passato, al femminismo diciamo ormai che sta dentro gli archivi e le biblioteche, ci ascoltiamo il pezzo di un gruppo di sole donne che è venuta a Bologna a gennaio all'interno di una delle manifestazioni di Bologna City Rockers. Sono le Hexen, sono un gruppo basco di sole donne che fanno Oi Street Punk. The words you said and do, for the time stop for myself. Listening to your voice, I want so rage, all the hatred, all the sadness, all the criticism, finding the right way to spit it out. You never die, you never die. Have a good find your leg, I think you're still with us. Bentornate e bentornati su Radio Città Fujiko, questa è Vallun ed è la vostra mezz'ora di storia. Vi stiamo parlando, anzi, vi parleremo a breve di femminismo radicale, di manifesti negli anni 60 e 70. Abbiamo invitato la curatrice del libro Manifesti Femministi, che è Deborah Ardilli, che tra poco sarà con noi. Deborah Ardilli è una studiosa, ha conseguito il dottorato di ricerca in filosofia, è anche una traduttrice, una studiosa di teoria politica dei movimenti femministi, e prima di questo libro ha pubblicato con Stefania Arcara la trilogia Scum e tutti gli scritti di Valerie Solanas, sempre per Morellini e Bandai Publishing, sempre nel 2018. Scrive anche per Lavoro Culturale Nazione Indiana. Sì, diciamo che abbiamo la fortuna di avere appunto una studiosa di movimenti, ma anche una traduttrice, cosa molto importante per questa pubblicazione, perché parla soprattutto di manifesti non solo italiani ma anche dagli Stati Uniti e della Francia. Si è occupata infatti anche, come ci racconterà, di tradurre alcune delle parole più importanti del femminismo radicale degli anni 70, ed è sicuramente una qualità non da sottovalutare. E per quando ci si occupa appunto di linguaggi, manifesti, scritti politici di gruppi non italiani. E tanti input, tanti spunti che non riguardano solo il linguaggio, ma anche il modo di analizzare e interpretare storicamente quello che è stato il femminismo. Bene, diamo la parola a Deborah Ardilli. Benvenuta Deborah, grazie di essere qui con noi. Ciao, grazie a voi. Raccontaci come è nato il libro. Ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici il titolo: Manifesti Femministi, il femminismo radicale attraverso i suoi scritti programmatici 1964-1977. Raccontaci un po' appunto come è nata l'idea e dici anche come è fatto dentro, perché insomma è un po' anche la particolarità di questa pubblicazione. Prego. Sì, allora, l'idea originaria è venuta da Angela Di Luciano di Vandai Publishing, con cui avevo già collaborato curando insieme a Stefania Arcara Trilogia Scam, sì. La raccolta degli scritti di Valerie Solanas. Dunque, anche alla luce del precedente immediato di Manifesto Scam, l'ipotesi di lavoro che abbiamo messo in pista è stata quella di ragionare più estesamente sul femminismo radicale degli anni 60 e 70, concentrandoci in modo particolare sul genere letterario del manifesto come prisma attraverso il quale provare a ripercorrere quella storia. Ovviamente il manifesto non è l'unica forma letteraria attraverso cui il femminismo si è espresso, però è quella che meglio di altre si prestava a documentare nell'atto stesso del suo farsi la costruzione del soggetto politico femminista, ed era su questo che ci interessava portare l'attenzione. Quindi su questa idea di Angela, che inizialmente doveva comprendere soltanto manifesti di area italiana, io mi sono innestata con due proposte aggiuntive. Infatti, la prima molto è interessanti. Quella di allargare il quadro, includendo nel volume anche scritti di provenienza statunitense e francese, mm-hmm. che in alcuni casi ho ritradotto ex novo, in altri casi tradotto per la prima volta in italiano. Diversi fra questi manifesti si trovavano nella mitica antologia del 72 della Nabasi, Donne sì. Bello. Avevano bisogno però in molti casi di una revisione di traduzione, quindi ho proceduto in questo senso. La seconda proposta riguardava la necessità di corredare questi documenti con un'introduzione storica che chiaramente aiutasse chi legge a orientarsi tra questi materiali, che sono anche abbastanza eterogenei fra loro. Non essendo per ragioni anagrafiche una testimone diretta degli eventi che racconto, il primo problema a cui far fronte è stato quello di misurarmi criticamente con la cornice narrativa attraverso cui la vicenda del femminismo radicale è stata trasmessa alla mia generazione. Quindi da questo punto di vista passami l'espressione, per me si trattava anche un po' di sputare ancora su Hegel, o quantomeno su quell'hegelismo implicito che ancora così spesso orienta la rappresentazione della traiettoria storica del femminismo. Mi spiego meglio. Sì. Per provare a istituire un rapporto significativo con quel passato, era ed è, a mio parere, indispensabile disfarsi di una rappresentazione di questa storia intesa come linearità ascendente, in cui decadi presuntivamente omogenee si succedono l'una dopo l'altra in una così inesorabile marcia di progresso e di rischiaramento delle coscienze. Ecco, credo che se ci adattiamo troppo pigramente a questo schema narrativo, corriamo poi il rischio di guardare anche con un po' di supponenza la seconda ondata come a uno stadio primitivo di sviluppo e di consegnarla così inerte a una iconografia completamente ingiallita. La mia proposta era quella di provare invece a invertire i termini della questione, vale a dire, premesso che l'attualità del femminismo radicale è costituita anzitutto dall'attualità sociale dell'oggetto della sua critica, cioè il patriarcato o l'eteropatriarcato, che dir si voglia, sì, resta importante per noi comprendere in che modo le femministe hanno scoperto e teorizzato questa oppressione patriarcale, in che modo si è costruito un punto di vista delle oppresse sulla propria oppressione e con quali implicazioni politiche. Quindi è a partire da questo filo conduttore che suggerirei a chi legge di percorrere il volume. E a proposito dell'introduzione, brava, perché secondo me è davvero una guida utile a chi si approccia anche per la prima volta ai manifesti femministi. Fai ben intendere infatti questa diciamo decostruzione dei decenni femministi, no? Dove prima c'è un, sì, tema poi l'altro, e è molto chiaro. E poi brava così ti dico brava così tranquillamente per aver dato spazio a alla rivendicazione del salario domestico all'interno del femminismo italiano, cosa che secondo me, a mio parere, ma forse sono un po' presuntuosa, è stato assolutamente quasi cancellato dalle narrazioni, diciamo, del femminismo, sul femminismo italiano, ma anche non solo da una memoria o da chi ancora detiene il potere culturale femminista, se così vogliamo dire, ma anche da alcune ricostruzioni storiche, da alcuni saggi e così via, assolutamente marginalizzate. Questa è una mia opinione, non perché tenga particolarmente a quei documenti, a quelle storie là, ma penso che ci sia stata proprio una marginalizzazione di quel campo. Mi sono chiesta spesso se fosse una questione legata al fatto che era un po' troppo visto come marxista da parte delle femministe italiane, oppure semplicemente se era un risultato di chi ha tramandato di più quella storia. Una riflessione a proposito del salario al lavoro domestico, o salario contro il lavoro domestico, sì, perché questo è il titolo del saggio di Silvia Federici che ho, sì, scelto per rappresentare quel gruppo. In effetti concordo sulla marginalizzazione in Italia, che è tanto più paradossale se pensiamo che negli anni 70 la lotta femminista e i gruppi per il salario per o contro il lavoro domestico erano quelli più diffusi e ramificati lungo la penisola. Da Trieste a Gela si trovavano gruppi per il salario al lavoro domestico, che poi in effetti sono un po' scomparsi dai radar grosso modo negli anni Ottanta, quando c'è stata questa operazione, soprattutto da parte del pensiero della differenza sessuale, di riscrittura della storia del femminismo in Italia a partire dall'esperienza del polo milanese, che in qualche modo ha, come dire, cancellato o minimizzato quella quell'esperienza, o a volte anche un po' banalizzato, accusandola di economicismo. Ci vuoi dire qualcosa su questo polo milanese per farci capire anche a chi non è, diciamo, addetta ai lavori? Sì. Allora, negli anni Ottanta la Libreria delle Donne di Milano realizzò un volume importante e influente che si intitolava Non credere di avere dei diritti, sì, che in qualche modo, a partire proprio dall'esperienza della Libreria delle Donne, che si era orientata appunto verso il pensiero della differenza sessuale, verso la pratica dell'affidamento tra donne, cose che negli anni 70 in Italia non esistevano, in qualche modo ha creato l'impressione che tutte le esperienze del decennio precedente dovessero convergere verso questo punto d'approdo. Sì. E questo ovviamente ha portato a marginalizzare altre esperienze che pure avevano avuto una loro consistenza, una loro importanza anche a livello internazionale nel dibattito, perché tutta l'area del lavoro domestico era poi organizzata nel collettivo femminista internazionale, che aveva diramazioni nei paesi anglosassoni, in Germania, in Canada, quindi parliamo di una piattaforma comunque già con una proiezione estremamente ampia. Io invece, Deborah, volevo inserirmi per chiederti un'altra cosa. Sì. È molto interessante il fatto che ci sia questo accostamento tra Italia, Stati Uniti e Francia. Quali sono, se ci sono, sicuramente ci sono, dei punti di contatto tra questi tre femminismi? Chiaramente ci sono punti di contatto, credo che il più significativo potrei ricapitolarlo in termini di crisi dell'emancipazionismo, cioè in tutti e tre i paesi, Stati Uniti, Francia e Italia, dove esplode tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 il femminismo radicale, si tratta per tutte di fare i conti con i limiti dell'emancipazione. Se noi guardiamo alle biografie delle donne che hanno animato i gruppi del femminismo radicale, vediamo sempre che non si trattava delle dannate della terra, passami l'espressione, certo. Si trattava di donne che avevano invece già raggiunto in qualche modo l'autonomia economica, che lavoravano fuori casa, che erano emancipate dal punto di vista dell'istruzione o emancipate politicamente, perché diverse fra loro, non tutte ma parecchie, venivano dall'esperienza nei gruppi della nuova sinistra. Tutta questa emancipazione però non era, come dire, sufficiente a rimettere in discussione lo stato subalterno delle donne all'interno di una società che rimaneva eteropatriarcale. E dunque è a partire da questa esperienza che si comune che si formano questi gruppi, che poi però naturalmente avranno delle specificità dovute anche chiaramente alla diversità dei contesti geopolitici in cui prendono forma. Questo aspetto di differenze dovute ai contesti traspare abbastanza nitidamente dai riferimenti che troviamo nei testi che ho raccolto. Ci fai qualche esempio? Sì, beh, per esempio nel caso statunitense è importantissimo il termine di confronto costituito dall'evoluzione del movimento per i diritti civili, ed è importante questo termine di confronto in due sensi. Intanto perché al momento della costituzione dei primi gruppi autonomi di donne la scelta separatista viene giustificata anche tramite il richiamo analogico all'esperienza dei neri e alla necessità che questi avevano avuto di allontanare i bianchi dalle organizzazioni per i diritti civili e di assumere il controllo politico e organizzativo della battaglia antirazzista. Al tempo stesso però l'ascesa del black power, del nazionalismo nero, apre conflitti importanti all'interno della comunità afroamericana proprio sulla linea del genere, nel senso che uno dei punti di partenza del femminismo nero di quegli anni consiste precisamente nella contestazione della politica demografica abbracciata dal nazionalismo nero, che puntava in qualche modo a relegare le donne al ruolo di riproduttrici della Black Nation e a promuovere per gli uomini modelli di virilità patriarcale particolarmente accentuati. Un'altra peculiarità del contesto statunitense rispetto ai contesti europei è l'apparizione precoce, o comunque più precoce che altrove, di una presenza lesbica e lesbo-femminista che, sia pure con risultati altalenanti, sollecita i gruppi femministi a integrare la propria analisi con una riflessione più stringente, più approfondita sui rapporti tra eterosessualità e patriarcato. Sì, questa è appunto una delle differenze di quel contesto. Quello francese invece si caratterizza perché prende forma una tradizione femminista materialista che in Italia purtroppo non ha gettato radici profonde, ma che ha avuto un ruolo importantissimo nella qualità dell'analisi anche del lavoro domestico e quindi del sistema eteropatriarcale come sistema anche economico e materiale di oppressione. Sì, devo dire che la diffusione del femminismo francese in Italia è tutta un'altra storia, cioè ci vorrebbe un altro libro per raccontare i rapporti tra Francia e Italia e su come sono e su quasi sì. arrivato il femminismo francese in sì. Italia. Senti, ti faccio un'ultima domanda per chiudere, ti chiediamo velocemente, c'è un manifesto a cui sei più legata per qualsiasi motivo? Dunque, sono due. Il primo è Christine Delphi, il nemico principale. Sì. A cui sono affezionata anche perché, come dicevamo ora, è uno di quelli che ha avuto minori possibilità di circolazione in Italia e minori possibilità di sedimentarsi nel dibattito. L'altro non è un vero e proprio manifesto, ma o meglio non lo è nel nome ma lo è di fatto ed è Definizione dell'oppresso. Mm-hmm. È la prefazione che Christian Rochefort scrive alla traduzione di Manifesto Scam di Valérie Solanas, alla traduzione francese che era del 1971. È una paginetta ed è una paginetta che vale di per sé come manifesto. Dead. Ringraziamo ancora Deborah per essere stata in nostra compagnia. Purtroppo, come al solito, il tempo è tiranno e magari la rincontreremo in qualche altra puntata, perché è davvero interessante. È davvero interessante il libro, è davvero interessante come i femminismi si siano toccati tra Stati Uniti, Francia e Italia. E noi per adesso è tutto, ma io in realtà volevo leggere un pezzettino piccolissimo del Manifesto di Rivolta Femminile, che è del 1970, in cui si dice una frase a volte forse per noi banale, ma in realtà che banale non è. Il manifesto dice: la donna non va definita in rapporto all'uomo. Su questa coscienza si fondano tanto la nostra lotta quanto la nostra libertà. Bene, con queste parole vi auguriamo un buon pomeriggio. Ciao. Ciao.